Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, per molti di voi saranno cominciati i giorni di vacanza, giorni che possiamo dedicare alla lettura, e allora vi segnalo un libro sulla storia del libro, scritto con verve e leggerezza, che è essa stessa una lettura molto gratificante per l'estate. L'autore è Andrea Kerbacher e il titolo è Breve storia del libro a modo mio. È pubblicato da Ponte alle Grazie, 268 pagine, 16,80 €. Si parte dall'origine della scrittura e poi naturalmente si passa subito a parlare della stampa, che ricorda Kerbacher fu un'invenzione che in un prima battuta ebbe luogo in Cina, che non seppe sfruttare questa grande invenzione. Le origini della scrittura ci dicono, secondo Kerbacher, che la pulsione alla scrittura e al racconto è ben viva in tutte le civiltà praticamente dall'inizio del mondo e si manifesta naturalmente con le varie tecniche che l'uomo ha seguito per trasmettere il proprio pensiero. Dopo il periodo degli amanuensi arriva la stampa che conosciamo noi, quella di Gutenberg, e l'uomo, scrive Kerbacher, che è passato pressoché inosservato, precursore di centinaia di persone che hanno variamente fatto progredire la storia umana senza ricavare in vita un centesimo degli onori che gli avrebbe riservato la posterità. E comincia quindi con Gutenberg la storia del libro come la conosciamo noi, di cui parliamo adesso con l'autore. Buonasera ad Andrea Kerbacher. Buonasera a voi. Andrea Kerbacher, la storia dell'editoria comincia con un clamoroso insuccesso commerciale. Povero Gutenberg non fece quattrini con la sua invenzione. No, poveretto, finì in fallimento totale, gli fu sottratta l'azienda dal banchiere che gli aveva dato i fondi. In realtà furono quelli che subentrarono ad arricchirsi. Lui morì povero, sconosciuto, dopo una decina d'anni dalla sua invenzione, e credo che oggi sarebbe molto sorpreso all'idea che il suo nome sia uno di quelli più citati nella storia delle invenzioni dell'umanità, perché i contemporanei davvero non glielo riconobbero per nulla. Però quell'invenzione ebbe un impatto enorme. Lei a un certo punto cita una frase: il libro ucciderà l'edificio. Ah sì, Vittor Hugo che diede questa grandissima interpretazione. Beh, ma insomma basta qualche numero, appunto un libro come la Bibbia di Gutenberg, che pure vede la luce in 3 anni, quindi un lavoro ciclopico, ma va in 180 copie e in fondo sostituisce il lavoro che era di un uomo e ne faceva una, quindi la moltiplicazione è incredibile. Noi ci sorprendiamo tanto della rete, delle sue innovazioni, ma quel passo è stato ancora più eccezionale. Cosa voleva dire Victor Hugo con quella frase? Che se prima la parola aveva trovato nella architettura, la pietra, la sua massima espressione, e quindi questa frase detta dall'arcidiacono di Notre Dame nel primo romanzo di Hugo, Notre Dame de Paris, e dal momento dell'invenzione in poi, Notre Dame è ambientato proprio nella metà del 400, la parola scritta diventa la parola con la P maiuscola e sostituisce la cattedrale. È un'intuizione geniale. Se qualcuno ha voglia e tempo e va al Museo Diocesano, Museo del Duomo di Milano, trova tutte le statue, che sono le statue che seguono la costruzione, che hanno in mano un libro, ed è bellissimo perché in pratica si può seguire anche l'evoluzione fisica del libro e dà l'idea di quanto forte sia il concetto della parola scritta. A proposito di questa evoluzione fisica, poi c'è una fase di straordinaria innovazione che ha il proprio cuore, come spesso è successo in Italia, a Venezia, con Aldo Manuzio. Che cosa succede in quel momento? Succede che in realtà l'invenzione della stampa in Germania è una sorta di accidente storico, perché la stampa, cioè il manoscritto, era diffuso soprattutto in Italia, oppure tutta più in Francia, in Germania. La Germania era un paese periferico. Come sempre i tedeschi ci mettono la tecnologia, come sempre gli italiani ci mettono l'estetica, perché i libri fatti dai tedeschi sono molto pesanti, sono delle colate di piombo, e invece i libri fatti dagli italiani una cinquantina d'anni dopo, quando la stampa ormai si è diffusa e in Italia trova una culla importante, sono libri piacevoli anche esteticamente. Io dico sempre che Gutenberg è un po' come la Merkel, che un giorno Paolo Di Stefano, critico del Corriere della Sera, abbia detto basta che tu non dica che Manuzzi è come Renzi, però insomma, ecco, diciamo che il paragone può reggere. Cambia anche la dimensione rispetto ai libri tedeschi con Manuzzi. Cambia la dimensione, i libri erano pesanti, erano fatti per una consultazione da tavolo. Manuzzi è intelligente perché si domanda ma chi è che può voler comprare queste cose? E ci rivolgiamo alla classe borghese, quella emergente, quella che è fatta da viaggiatori soprattutto, quindi persone che vogliono durante il loro viaggio avere la possibilità di leggere e quindi portarli con sé. Quindi poi, dimensione più piccola, carattere più bello, più leggero, invenzione del frontespizio, sostanzialmente un libro fatto da Gutenberg non è lontanissimo da un libro fatto oggi. Poi ci fu un'altra repubblica, questa borghese, a differenza di Venezia, che era l'Olanda, che a un certo punto lei definisce in un capitolo piccolo a oasi di libertà. Perché? Perché nel momento in cui c'è la grande censura che impera un po' in tutti i paesi che sono interessati dalle lotte religiose, quindi né tutti, nessuno escluso da una parte o dall'altra, non dimentichiamo che la grande diffusione della stampa è anche agevolata da Lutero, che ne fa un uso particolarmente innovativo, un po' tipo il ciclostile per chi di noi è un po' più vecchio degli anni 60. Questo è l'utilizzo e quindi la stampa comincia a venire vista con sospetto dalle varie censure. Gli olandesi, che sono un po' più libero e nel 600 soprattutto, quando sono il popolo dei commerci soprattutto e sono un popolo piccolo che se lo può permettere, in realtà conoscono qualche episodio minore ma sono un popolo libero. E a me piace ricordare che la nazionale olandese, che gioca a pallone in un modo così creativo, in fondo è la rappresentazione di quello spirito, e lo dico da milanista perché il Milan ha avuto dei grandi giocatori olandesi nel suo passato recente. Bisognerebbe magari fare in modo che leggessero un po' di più però i nostri amici calciatori. Sarebbe una bella cosa, lo diremo al presidente Berlusconi. Senta, lei ha parlato spesso già anche in questa conversazione dell'aspetto fisico del libro, poi a un certo punto questo aspetto cambia di nuovo radicalmente nel 700. Che cosa rappresenta questo cambiamento, questo secondo cambiamento fisico dei libri? Beh, c'è ancora alla base un grande cambiamento tecnologico e c'è ancora alla base una bella storia umana, perché poi è bello di raccontare le storie dei libri che dietro evidentemente ci sono gli uomini. Quindi c'è un lord inglese, Lord Stanhope, il quale inventa una nuova macchina che dà una nuova possibilità di stampa molto più rapida e molto più in serie delle altre. E siccome, pur essendo un lord, cioè un pari inglese, è un uomo piuttosto di sinistra e anche con una certa simpatia per i francesi, cosa che notoriamente in Inghilterra non è molto popolare, e per la rivoluzione che i francesi hanno fatto, decide di non brevettare la sua invenzione per metterla a disposizione di chi la vuole utilizzare, il che accresce la diffusione di questa macchina e permette un avvio di una nuova editoria che poi alla fine diventa quell'editoria molto allargata che con passaggi successivi porta poi al libro per le grandi masse. Nel 700 c'è anche la evoluzione del modello distributivo, nascono i librai che sono oggi l'anello della catena più debole forse. Sì, i librai sono un'invenzione sostanzialmente di quel periodo, prima i libri venivano portati in giro attraverso le fiere, venivano messe nelle bisacce dai mercanti, era una distribuzione molto casuale. Invece con il libraio si comincia ad assistere a una struttura anche quella che è vicina ai giorni nostri. Però c'è una cosa molto molto affascinante di tutto il processo che non è mai cambiata. Già nel 400, cioè all'epoca dei manoscritti, la fiera annuale del libro si teneva a Francoforte, cosa che avviene ancora oggi. Cioè, per 600 anni tutti gli addetti ai lavori della catena libraria, nelle immense evoluzioni che ci sono state, si sono ritrovati a Francoforte. Parlando del libro di oggi, lei a un certo punto parla del fenomeno del marketing. I libri ormai sono diventati dei prodotti che si lanciano come i prodotti di consumo di larga massa. Ecco, come vede lei questo fenomeno? Come influirà sulla sorte del libro? Beh, influisce evidentemente perché nulla oggi, o molto poco quantomeno, ha la speranza di potersi imporre da solo, quindi occorre avere un editore importante, occorre avere la capacità anche di arrivare al pubblico con dei messaggi giusti. Va detto però che l'industria del libro riesce sempre a essere sorprendente. Se prendiamo un esempio recente di casa nostra, quando Eco scrive il nome della rosa, a Bompiani piace molto, c'è ancora il vecchio Valentino, e quando lui dice quante coppie ne tirate, immagina che ne tireranno al massimo 10.000, che gli sembra già una cifra stupefacente. Lui in fondo è un professore noto solo negli ambienti accademici, quelli più attenti alle cose letterarie. Bompiani dice: no, noi ne stampiamo 80.000. E Eco gli risponde: siete completamente matti. Invece ha ragione Bompiani, il libro ha un grande successo, sorprendendo lo stesso autore. Quindi per fortuna, ancora poi al di là dei marketing, dei battage, che sono comunque abbastanza necessari, poi noi, i lettori, abbiamo la possibilità di generare anche dei buoni esiti. Quindi lei si colloca in una posizione mediana nello scontro partigiano, come lo chiama lei, fra i fautori delle nuove tecnologie che vedono il libro defunto e invece i nostalgici del vecchio prodotto. Ma insomma sì, io credo che questa sia un dibattito che lascia un po' il tempo che trova, come 50 anni fa si diceva che la televisione avrebbe ucciso le buone lettere. Si sta assistendo a un cambio evidentemente importante che porta a cambi anche radicali nelle abitudini, soprattutto dei giovani, ma poi il libro di carta, come l'abbiamo sempre conosciuto, c'è, rimane in Italia, comunque percentuali importanti, in America ormai da 3-4 anni si è stabilizzato e comunque mantiene il 75% di quota. Insomma, è un'evoluzione e come tante bisogna prenderne atto, bisogna lavorarci, non bisogna sottovalutarla. E poi io dico sempre che ci sono parecchi titoli di libri che vediamo in libreria che secondo me, se non uscissero proprio, uscissero solo in digitale, non è una gran perdita per l'umanità. Possiamo augurarci quindi che questa trasmissione avrà lunga vita grazie ai libri. Sicuramente sì. Grazie ad Andrea Kerbacher, autore di Breve Storia del Libro. Buona serata. Grazie a voi. Nel libro si parla naturalmente anche di censura e allora vi segnalo il libro di Antonio Armano, Mal Edizioni, è scritto con una sola parola ma il mal è in eretto, pubblicato da Rizzoli, 576 pagine, 20 euro, sottotitolo Processi, sequestri, censure a scrittori e editori in Italia dal dopoguerra a oggi, anzi domani. Non c'è bisogno di tornare ai tempi dell'Inquisizione per capire appunto che l'intolleranza nei confronti dei libri è dura a morire. Ancora negli anni 50 e 60 nel nostro paese pubblicare poteva essere un rischio e ancora oggi del resto è in pieno vigore l'articolo 528 del Codice Penale che, ricordo, recita: chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa non inferiori a euro 103. In realtà nella nostra storia c'è stato un unico caso di condanna nei 3 gradi di giudizio, toccò a Pier Giuseppe Murgia, autore nel 1960 del libro Il ragazzo di fuoco, e perciò il primo capitolo del libro si intitola appunto Dei delitti e delle penne. Il destino della persecuzione toccò anche a libri celebri, per esempio L'Ulisse di Joyce, che venne pubblicato nel 1922, ma arrivò in Italia soltanto nel 1961 per essere subito denunciato. E poi qua ci sono illustrati altri casi eclatanti, dal Muro di Sartre fino alle poesie di Antonia Pozzi, che furono riproposte nella versione originale soltanto nel 1989, corrette dalle correzioni che aveva inflitto alle poesie della figlia lo stesso padre. Naturalmente non tutto finiva male. Per esempio, il pubblico ministero di Verona decise di assolvere, o chiese che venisse assolto, l'Ulisse appunto di Joyce, come recitano le righe della sua ordinanza che adesso vi propongo. Nell'Ulisse si incontrano pagine sorrette da un'alta e autentica poesia. È un romanzo dove gli uomini vivono, dolorano, muoiono e trovano nel povero, tradito Leopold Bloom il loro rappresentante. E se qualche volta gli uomini peccano, ciò rientra nel loro destino e anche il loro peccato è fonte di dolore. E se si scrive talvolta il peccato, specie quello della carne, non si fa che rimanere aderenti all'umanità. l'accusa di pornografia o di osceno, suona offesa al contenuto del romanzo che costituisce l'epopea, ora gioiosa, ora triste, ora dolorante, dell'uomo costretto a vivere fino al giorno in cui, fatalmente, precipita nella morte. Per questi motivi, chiede pertanto che il giudice istruttore, con suo decreto, voglia dichiarare impromovibile l'azione penale, trasmettendo gli atti nell'archivio. Pierluigi Battista affronta il tema dell'atavica intolleranza verso i libri in I libri sono pericolosi, perciò li bruciano. È pubblicato da Rizzoli, 158 pagine, 11 euro. Questa è la storia della persecuzione dei libri attraverso gli episodi più drammatici e i personaggi più intolleranti. Una intolleranza, questa verso i libri, difficile da estirpare anche ai giorni nostri. Battista ricorda per esempio l'episodio di Vitaliano Brancati che, volendo protestare per l'intervento censorio nei confronti di una sua commedia, La Governante, scrisse un ritorno alla censura che gli riuscì molto difficile pubblicare nei giornali dell'epoca. Quindi, conclude l'autore, il futuro non è roseo e per non farci trovare impreparati occorre combattere il fanatismo e munirci di strumenti che servano a neutralizzare i piromani, quelli che i libri li vogliono bruciare. Un libro tira l'altro. E parliamo adesso di un gruppo rock italiano noto all'inizio per la sua trasgressività, che all'improvviso esce dallo stile di vita che lo aveva caratterizzato, dominato dalla triade sesso, droga e rock and roll, per scoprire la fede, la religione e dedicare la propria attività musicale a questa nuova ispirazione. Sono i Sun It's Hours, un gruppo nato nel 1997 che si era subito affermato anche a livello internazionale. Poi, appunto, dicevo, la crisi spirituale del leader Francesco dopo una lunga stagione di eccessi amatori, alcolici e segnati anche dall'incapacità di dare una risposta ad alcune domande esistenziali che Francesco Lorenzi sintetizza in queste righe. Chi sono? Dove sono? Dove andrò? Cosa voglio da me? Ho amato abbastanza? Che senso ha la mia vita? Sono ancora in grado di sognare? Che senso voglio dare al mio esistere? Cosa mi rende pienamente libero, gioioso e grato? Mi sento come se aspettassi qualcosa. Proprio questa crisi racconta l'autore, appunto Francesco Lorenzi, nel libro che si intitola La strada del sole, pubblicato da Rizzoli, 390 pagine, 17 euro. Nel 2007 Francesco inizia a frequentare un corso di spiritualità ed evangelizzazione nella sua parrocchia che risulta non soltanto decisivo ma anche contagioso nei confronti dei suoi amici della band. Il gruppo continua a fare musica ma l'ispirazione ormai è cambiata, è diversa, è segnata anche da varie dio incidenze, come le chiama l'autore nel suo libro. Una straordinaria concatenazione di eventi li definisce, insieme a miliardi di altri dettagli perfetti disposti in quei giorni, che cambia il corso della mia vita e di quella di tante altre persone. Insomma, commenta il cardinal Ravasi nella prefazione a questo libro, la forza dirompente della sonorità rock è stato come uno squillo di tromba che lo ha risvegliato dal sonno dello spirito e gli ha aperto uno squarcio sul mondo della fede. Dicevo dell'effetto contagioso. Francesco infatti ricorda che il cambiamento non fu rifiutato non soltanto dagli altri componenti della band ma anche dal suo pubblico. Scrive per esempio che la casella di posta elettronica della band cominciò a registrare ogni mese l'arrivo di centinaia di mail. Persone di età anche diversissime tra loro, dai 15 ai 70 anni, ci scrivevano per il desiderio di esprimerci come le canzoni di Spiriti del Sole incidessero positivamente nella loro vita. Je suis en agonie jusqu'à la fin du monde. Et le monde se meurt à force de. E queste note ci introducono a un'esperienza ancora più radicale, quella di Michel-Marie Zanotti-Sorkin, che è un prete francese con un passato appunto da chansonnier, l'abbiamo sentito in queste note, che scrive una sorta di manifesto nel libro I tiepidi vanno all'inferno, piccolo trattato sul sale della vita, pubblicato da Mondadori, 106 pagine, 14,90 €. Zanotti Sorchin è attualmente parroco a Marsiglia, si definisce un semplice curato di città, eppure si prende la responsabilità di indicare ai suoi colleghi sacerdoti l'esigenza di essere saldi e frementi nel campo della fede, contro quella che definisce qualsiasi forma di tiepidezza, di debolezza, di leggerezza, di inoperosità in materia di fede. E ci sono qui una serie di riflessioni, un prete freddo e distante inutile qua giù, con la sua presenza il più nocivo degli uomini, oppure mani pulite, tenute impeccabile, scarpe lucide, rasatura perfetta, un tocco di profumo, ecco il modo di essere un prete a modo. O ancora, non si tratta di essere simpatico, ma di essere Dio, buono e penetrante. Oppure ancora, l'imprudenza è la qualità dei santi. E queste riflessioni sono seguite da un piccolo trattato dell'essenziale, scandito da capitoli con i titoli in latino, che affrontano temi accomunati dall'essere quello che manca oggi, come scrive l'autore, all'anima della vita. Sentiamo per esempio le righe finali sulle virtù del locus agrestis, della verde campagna. Lui, diventato seminatore e vigna, noi, fico sterile o pecorella smarrita, il tutto che si confonde. Oh, santa natura, in vista della più alta comprensione dell'intenzione divina, fino alla notte del giardino degli ulivi, passata in preghiera e all'addiaccio, in ginocchio sugli aghi di pino, per glorificare ancora la bellezza del suolo. Ovunque ci si giri, la campagna è lì per mettere in guardia l'essere umano sul suo destino. Sistemare il suo equilibrio, primo frutto, asse sacro, fondamento senza il quale tutto è compromesso. Al di fuori della natura, l'uomo è perso. Grazie a lei, il figlio il prodigo, mangiando carrube e ghiande, ritrova l'ovile, e la gioia del padre viene esaudita. Città, inferni di cemento, creatrici di gabbie, nemiche dello spazio, inquinatrici del corpo, assassine dell'estetica, il futuro è vostro per la nostra felicità? Un'indagine su Gesù Cristo è quello dell'ultimo romanzo dello scrittore Ferruccio Parazzoli, si intitola Né potere né gloria, indagine su un uomo tradito, Gesù, è pubblicato da Rizzoli, 238 pagine, 16 €. L'indagine è quella che conduce, subito dopo la crocifissione di Cristo, un Valerio Massimo, che è un intellettuale romano capitato a Gerusalemme, che assiste casualmente alla morte di Cristo in croce, e da lì comincia un'inchiesta personale sulle ragioni della condanna, che lo porta a incontrare Pilato, a conoscere i discepoli di Gesù, a visitare la madre e a concludere comprendendo confusamente che Geoshua non era colpevole, se non di aver gettato la sua vita per tutti coloro che lo hanno già dimenticato, così si conclude il libro di Parazzoli. Ma agli occhi di Valerio Massimo, infatti, Gesù non farà storia, e anzi il protagonista rifiuta di sperare o di credere nella resurrezione, proprio perché Gesù gli piace da fallito e non da vincitore. Ed ecco dal libro alcune righe sul primo incontro di Valerio Massimo con uno spossato Ponzio Pilato. Trovai Pilato seduto sotto un portico interno, non quello che dava sulla piazza. Non stava facendo esattamente niente. È vero che stava aspettando me, ma aveva sulla faccia l'aria di chi è profondamente annoiato più che scocciato. Aveva lo sguardo appannato e stupefatto, come dicono che sia l'occhio di un annegato. Non indossava la toga e la tunica non era certo di bucato, ma era macchiata sul petto e perdeva perfino qualche filaccia. Notò il mio sguardo. Sì, non ho portato con me molti ricambi. Sono sceso da Cesarea solo per la festa. La chiamano Pasqua. In genere queste feste sono occasione di tafferugli. Come quello che ha portato alla crocefissione di quel piccolo ebreo circa un'ora fa? Di quale piccolo ebreo? Non so come si chiamasse. C'era una targa sulla croce con 4 lettere. Inri. Mi hanno detto che l'hai fatta mettere tu. Ah, ho capito di chi parli. Un fatto senza importanza, un pasticcio più che altro. Sempre per questioni religiose che a noi è difficile seguire. Troppo tortuose. Una questione che è stato meglio liquidare subito senza tirarla tanto per le lunghe. Così mangeranno tranquilli la loro Pasqua e tutti saranno contenti. Tranne quel piccolo ebreo. Tranne quel piccolo ebreo, naturalmente. Tanto lui non interessa a nessuno. Abbiamo parlato della ricerca di un senso per la propria vita, e con filosofo ed esperto di storia delle emozioni britannico Jules Evans, che pubblica Filosofia per la vita e altri momenti difficili, come Socrate e Company possono aiutarti a star meglio, pubblicato da Mondadori, 330 pagine, 17 euro, tradotto da Giuseppe Gallo. Questo è un libro che ha avuto un enorme successo in patria, che cerca attraverso la filosofia di trovare o cercare la saggezza interiore, soprattutto attraverso i filosofi greci. La filosofia, ci dice l'autore, ricordando Cicerone, è un'arte medica per l'anima, e Socrate è stato il maestro di questa terapia. Di qua la narrazione di Evans, che parla di Epitteto, di Seneca, di Epicuro, di Eraclito e di tanti altri che hanno ancora molto da dirci su come vivere e anche su come andarcene. E adesso un omaggio all'attualità, l'attualità dolorosa, quella della situazione palestinese. Vi segnalo il libro di un poeta palestinese, appunto Mahmoud Darwish, morto nel 2008, che si intitola Una trilogia palestinese. È pubblicato da Feltrinelli, 412 pagine, 25 euro. Ed è tradotto da Elisabetta Bartoli e Ramona Ciucani. Questo volume raccoglie una serie di scritti fra il 1973 e il 2006, più una lunga poesia che si intitola Il giocatore d'azzardo, una poesia edita postuma nella quale il poeta ripercorre la propria vita. Ma del resto tutti gli scritti che troviamo qui hanno una forte componente autobiografica. Il primo, per esempio, fu scritto a Beirut, dove Darwish si era trasferito dopo aver abbandonato la Palestina, dove aveva militato contro Israele, e con questo scritto il poeta abbandona proprio la fase della maggiore militanza politica, perché, scrive Elisabetta Bartoli nell'introduzione, vuole essere parte della sperimentazione della modernità, il che non gli impedisce naturalmente di entrare a fondo negli accadimenti precisi delle realtà palestinese. Mentre l'ultimo scritto è di pochi mesi prima della morte. Darwish è tornato in Palestina e ormai il poeta nazionale sperimenta qui un linguaggio sospeso tra prosa e poesia, dominato da un ritmo quasi musicale. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato della ricerca dei grandi temi, allora vi segnalo il libro Libertà, che è un libro di Paul Éluard, il grande poeta francese, nella versione italiana di Franco Fortini, pubblicato da Gallucci, 24 euro, un libro a fisarmonica che compone quasi una scena dalla quale scorrono i versi di Éluard dedicati appunto alla libertà. E con questo ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, Roberto Scaltritti e Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.